quando dal dalle cime nel vedere ti parli di laggiù. Ma tu chi sta se pensi a me Marina che è fratana.